stanno sedute sopra le panchine, le vecchie lavandaie dal borgo. All'ombra di una pianta sempre verde, guardano passare la gente. Batte lontano la campana del Duomo, il traffico è quel mostro strano. La vecchia con il suo rosario in mano sorride e poi torna a pregare piano. Tra le case e i motorini, nei negozi sempre pieni, i ricordi della vecchia sono farfalle bianche e volo. Tra le rive del Ticino, sulle foglie del giardino, i ricordi della vecchia sono farfalle bianche e volo. Passa un bambino con il suo cane al guinzaglio, e il tram è quel gigante giallo. Mentre di corsa il mondo intorno si muove, a loro piace. Dentro le mani hanno poco da fare, le vecchie stanno lì a guardare, sedute al sole sopra le banchine, le vecchie tornano. Tra le case e i motorini, nei negozi sempre pieni, i ricordi della vecchia sono farfalle bianche in volo. Tra le rive del Ticino, sulle foglie del giardino, i ricordi della vecchia sono farfalle bianche volo, farfalle bianche.